Benvenuti a Radio Disturba Popolo. Questa è la seconda puntata. Divisione distorta. Amen, fratelli, amen. Siete di nuovo qui con me per la vostra mezz'oretta di distorsione. Se siete ancora con me, forse l'altra volta sono riuscito ad agganciarvi. Vi ho fatto vedere un pezzettino di realtà. Vi ho dato la vostra pillola blu. Eppure qualcosa ancora non vi torna, giusto? L'ultima volta vi ho lasciato con il nostro Winston, che aveva ormai perso ogni speranza. Aveva perso ogni filo di umanità e si era abbandonato al sistema. E voi cosa farete? Noi cosa faremo? Lasceremo che questo sfregio continui? Sceglieremo di piegarci o continueremo la nostra battaglia? Pur sapendo che il nostro nemico ha tutti i mezzi, più di quelli di un cattivo Disney con l'armata di Goblin. Credo che se siete arrivati fino a questo punto sarà difficile mollare. Ormai qualcosa dentro di voi continua a grattare e a scavare a fondo e a cercare dentro voi stessi. Questi 3 anni ci hanno regalato... Anzi, più che regalato, ci hanno forgiato a fuoco qualcosa di importante dentro di noi. Adesso iniziamo a essere in grado di capire meglio le persone che abbiamo attorno. E stentiamo a fidarci di alcune di queste. Ogni presupposto della nostra esistenza è stato messo in dubbio, perché ci è stato dimostrato dai fatti che è soltanto il costrutto di un'associazione di banchieri che si riunisce nel proprio club il mercoledì sera. Quello che ci propinano nell'infosfera, in televisione, alla radio, su internet, sui social soprattutto. Non ci rimane. È un continuo bombardamento di informazioni, l'una discordante dall'altra, come per volerci stordire, senza darci la possibilità di fermarci a ragionare. Ve lo ricordate? Il bombardamento di marzo del 2020. Il bollettino del nostro santo Locatelli. Me lo ricordo solo io, il rituale di ogni sera di questa benedetta pandemia. Vi ricordate il rituale delle nostre manifestazioni il sabato pomeriggio? Quella cantilena di persone che non voleva mollare. Eppure, le cose vanno avanti. Insomma, vogliono portarci in una dimensione dove il tempo e lo spazio vengono annullati. Il tempo, perché il bombardamento di informazioni non lascia neanche il tempo di respirare. E lo spazio e la bellezza del viaggio e della diversità del mondo vengono annullati da un'immigrazione sfrenata e dal nostro internet, con il quale possiamo perfino visitare musei dall'altra parte del mondo, senza neanche pagare. Non siete contenti? C'è però anche, diciamo, nei rivoltosi, nei rivoluzionari, nei complottisti, qualcosa che non torna. Non tutto è rose e fiori. Un po' come per il libro regalato al nostro Winston del diario di Goldstein, no? Quel fantastico libro che in mezzo a 1984 racconta la vera storia di quella che è stata il passaggio da una democrazia londinese a quella distopia che era quella del Grande Fratello e del Socic, no? L'avete letto anche voi ormai. Sapete che c'è tutto, è tutto razionale, sfila tutto per bene. Eppure, alla fine, O'Brien era dall'altra parte, no? In questa parte del romanzo viene presentata una versione del mondo distopico. Si parla apertamente delle strategie e degli eventi che hanno costruito il partito e il Socing, chiaramente. Senza paura di svelare nessuna verità, nascosta da segreto o da qualsiasi, diciamo, idea complottista. Non vi ricorda qualcosa, ragazzi? Lo vedete ogni giorno in televisione. Ormai vi dicono apertamente che vi hanno iniettato, ci hanno iniettato, parlo da partecipante al popolo, una strana sostanza di cui non sanno gli effetti. E lo hanno fatto solo per interesse economico, sicuramente non scientifico. Vi state cagando addosso, eh? Avete capito che ormai, con un poco di propaganda fatta in televisione, tutto può diventare realtà. Come diceva O'Brien, è il partito che detiene la verità. Perché non si può fidare delle persone. E nella distopia orwelliana, con il partito, con il Ministero della Verità, si era perfino giunti a falsificare la storia. Ma non vi ricorda qualcosa con quella fantastica uscita dei nostri politici che hanno detto che Auschwitz è stata liberata dagli ucraini invece che dai russi? Allora, qual è la realtà? Qual è la distopia ora? Nel mondo nuovo, invece, i libri e le notizie non sono stati nemmeno censurati. Sì, alcuni di quelli apertamente che portavano alla logica, al pensiero critico, chiaramente sono stati nascosti. Ma non c'è stato bisogno. Hanno agito direttamente sulle persone. Gli hanno tolto il bisogno della cultura. Li hanno resi felici tramite il sesso fino ai 50 anni, una vita da giovani in cui godere dei propri sensi. Una concezione sensista, come direbbe il nostro Aleksandr Putrin Sorokin. Una visione del mondo che accetta solo quello che i sensi riescono a percepire. Ma c'è qualcos'altro, chiaramente qualcos'altro, ed è quello che nel mondo nuovo è stato negato. Quello che il nostro selvaggio porta davanti al grande Mustafa nell'ultimo dialogo, dove gli si chiede perché è così convinto di volere la sofferenza nella sua vita. Tutto deve essere bello, tutto deve essere fugace, tutto deve essere immortale, perfino il corpo. Non deve più esistere il tempo, non deve esistere la vecchiaia, non devono esistere le persone che non sono perfette. Il mondo deve essere un bellissimo pacchettino colorato su un bancale dello scaffale di un supermercato. Devi passare, prendere, consumare, distruggere, dimenticare. Non ci deve più essere niente di brutto, vetusto, consumato. E così, anche negli ambienti alternativi, stiamo seguendo questa via. Tutto deve essere perfetto, tutto deve essere bianco o nero. Non ci deve essere qualcuno, qualche voce fuori dal coro. Ognuno vuole fare quello che vuole, senza dare la possibilità all'altro di avere uno scambio. Sempre nel nostro mondo nuovo, gli embrioni sono ormai progettati per non neanche richiedere, addirittura con diversi livelli di intelligenza o di aspettativa di vita. Come si dice, un Epsilon mai si sognerebbe di diventare un Alfa, è felice di essere un Epsilon, è la sua natura. La natura. Che bella invenzione che si sono fatti questi. Oh, hanno distorto il termine di natura. E invece è proprio lì l'intervento dell'umano che si vuole sostituire a Dio. Eppure anche le classi privilegiate nel mondo nuovo non cercano la letteratura. Perché? Perché è qualcosa che non porta al guadagno e al ritorno economico. Qualcosa che non alimenta il sistema al suo interno. Un circolo che spezza. Qualcosa che spezza quel circolo. Che spezza quel legame morboso con la materialità. La ricerca di qualcos'altro. La società non ti deve dare il tempo di cercare te stesso. In poche parole, in tutte e due le distopie si realizza il sogno dei nostri sistemi, da una parte capitalistico, dall'altra parte marxistico di stampo socialista, che alla fine hanno seguito quelle versioni distorte che perseguono la realtà materiale e non riconoscono all'umano la sua esistenza multivalente su multipiano. In tutti e due i casi il richiamo alla conoscenza di se stessi è cancellato. Non ci deve essere qualcosa di più se non la dedizione al partito, al governo o al nuovo smartphone. Ma è venendo al padrone del mondo che tocchiamo il massimo. Nemmeno la Chiesa Cattolica, ultimo baluardo della tradizione mondiale, riesce a opporsi alla narrazione dominante. Nemmeno il potere spirituale riesce nulla contro questa distopia che porta le persone a materializzare perfino la propria anima, perfino il proprio avatar, perfino il proprio io, a rafforzare le debolezze del proprio io, anzi a soddisfare l'avidità del nostro io. E il nostro protagonista, vedendo questa situazione, vedendo la battaglia contro la religione dell'umanità, che diventa sempre più forte e giunge perfino a distruggere Roma, nella parte di unica capitale del culto, decide di non mollare. E alla fine, ragazzi, dovete leggerlo. Eppure, neppure con questi capolavori, tramandati ormai da almeno un'ottantina d'anni, un secolo per il padrone del mondo di Benson. E non è il nostro Benson, Richard Benson, pazzo metallaro che si diverte a fare il vecchio blues e che è leggermente forse un po' troppo hard per alcuni di noi, ma Robert Hugh Benson. Nemmeno questi capolavori sono riusciti a metterci in guardia contro questa avanzata questo mondo materiale che concretizza nella quantità e non nella qualità di quello che vede. Abbiamo creato un'opposizione del tutto frammentaria e sconclusionata, che tra l'altro vuole rispecchiare gli schemi e i modi del sistema che la messa che ci ha consegnato questa situazione e che ci ha messi alla guagna e ci ha discriminato negli ultimi anni. È di qualche giorno fa ormai la notizia che il piano delle vaccinazioni obbligatorie continua e continuerà, prenderà inizierà con i dipendenti pubblici. Ovviamente non viene detto che le nuove vaccinazioni saranno tutte mRNA, quindi è andata bene la prima volta. Per bene poi voglio capire cosa si intende per bene. Perché non tentare e regalare di nuovo le farmaceutiche a un'esperimentazione gratuita su un campione come quello del popolo italiano dei dipendenti pubblici? Vi ricordo che una volta, per testare un farmaco, bisognava almeno informare le persone che facevano da tester e trovare un campione, e le persone dovevano essere pagate. Ma che bello, adesso ci pensa addirittura il governo a selezionare quale classe diventerà topo da laboratorio. Non siete contenti, ragazzi? Ma tanto sappiamo che non ci riguarderà. Ma fino a quando non toccherà a noi? Fino a quando non riusciranno a costringerci? E cosa farete quando avrete la corrente e O'Brien che vi dice «Io posso arrivare fino a 100»? Chiaro che non tutti i protagonisti della controinformazione e gli antisistema sono disinteressati a quello che fanno. Qualcuno ci ha guadagnato molti soldi immischiandosi in questo campo. Certo, all'inizio magari c'era una volontà di fare del bene, ma adesso cosa bisogna fare? Sappiamo infine che gli influencer pro e contro pandemia hanno cercato di indirizzare alla non violenza dei gruppi durante il primo periodo di restrizioni. In modo da, diciamo, non creare problemi, che non si creasse un'insurrezione. Penso che non ci sarebbe neanche stato problema, non ci sarebbe neanche stato bisogno, perché la frazione delle persone che hanno percepito realmente il pericolo che stava per arrivare era veramente ridicola. E quindi l'unica cosa che interessava a queste persone era avere like, visibilità, iscritti, follower. Insomma, volevano che facessimo la rivoluzione dai social. E dovevamo anche chiedere l'autorizzazione per le manifestazioni. Ma li avete visti i nostri fratelli francesi che cosa stanno facendo? Li avete visti? Non si fermano davanti un cazzo. C'è gente che va in ospedale e rimane in coma durante la manifestazione, quando quei figli di puttana in divisa li danno manganellate o li caricano, li lanciano i lacrimogeni. E non ci sono i giovincelli in piazza. Sì, ci sono anche loro, ma la maggior parte è gente sopra i 50. I nostri giovani, la nostra gioventù, ormai è immersa nel mondo della materialità. Tutti i loro bisogni, o quelli che credono che siano i loro bisogni, sono soddisfatti dal sistema. Ah, il monopattino elettrico. Oh, la ricarica di Fortnite. Oh, finalmente posso stare a casa a giocare col reddito di cittadinanza. Ma che bello! Ma sì, ma del resto me lo comprerate. Non posso avere nulla di mia proprietà. Tanto ci penserà lo Stato, ci deve pensare allo Stato, no? E quindi qual è il nostro futuro, ragazzi? Chi rimarrà fedele al proprio io interiore? Chi non si piegherà davanti a tutto quello che succederà da qui in avanti? Ritorneremo fra poco fra il guru del dissenso e gli avvocati del popolo, ma partiamo dal principio. Che cosa vuol dire rivoluzione? E come si può sovvertire un sistema? Nemmeno siamo riusciti a fermarci a mettere in discussione realmente quale fosse il modo più efficace per ribaltare e sovvertire questi cicisbei. I banchieri a sangue blu. Non ci siamo guardati in faccia e ci siamo fermati e abbiamo detto: come possiamo fare a cambiare veramente le cose? Non ce lo siamo nemmeno chiesto, ma perché non volevamo chiedercelo. Noi volevamo ritornare solo alla situazione prima del 2020. Era tutto così tranquillo, andava tutto così bene, era tutto così fantastico. Poi dimentichiamoci, come abbiamo detto l'altra volta, dei 17 obiettivi dell'Agenda 2030 che continuavano imperterriti. Ma tanto non toccavano noi, quindi che cazzo ce ne fregavo. Sovvertire un sistema sociale, economico e politico vuol dire un cambiamento drastico, in primis delle persone che vogliono portare il cambiamento. Perfino nell'uso delle parole. Invece abbiamo accettato le neolingua ogni cazzo di volta. Ci chiamavano complottari e noi ci chiamavamo complottari. Ci chiamavano Novax e noi ci chiamavamo Novax. Ci chiamavano dissenso invece di chiamarci parte sociale. Perché? Perché abbiamo accettato ogni cavolo di volta il nuovo linguaggio? Abbiamo accettato perfino di scendere nel loro campo e provare scientificamente che questo siero non era un siero ma un trattamento. Ma ragazzi, ma facciamoci la domanda principale: ma perché invece non li abbiamo mandati semplicemente a fare in culo perché non ci davano i nostri diritti e la libertà di scelta? A me non interessa, non me ne frega un cazzo che sia un farmaco o un siero. A me interessa che devo decidere quello che voglio fare con la mia vita e con la mia salute. E il resto non conta. Non può dirmelo nessuno, neanche quella cazzo di corte costituzionale. Perché? Perché è la mia libertà che prevale sull'interesse del popolo. E anche queste teorie. Qual è l'interesse? Perché adesso le prove dimostrano che è stato solo un interesse economico di pochi, del ministero, dell'AIFA, di tutti questi simpatici personaggi che hanno messo lì su quella poltrona. E allora? Continueremo a usare questi termini? Continueremo a ragionare nel termine del sistema o inizieremo a ragionare fuori dagli schemi? Fra poco ci daranno dei terrapiattisti o dei trogloditi perché non accettiamo la rivoluzione green. Fra poco ci bloccheranno la produzione. Avete visto la fantastica mappa dei paesi che stopperanno l'immatricolazione dei mezzi diesel nel 2035? È un puntino blu sull'Europa, tutto il resto del mondo continuerà a fare macchine. Siamo dei coglioni di merda. Lo capiamo che ci stanno tirando per il culo? Vogliamo parlarne seriamente? Se non ci opponiamo fermamente ogni giorno, come direbbe il nostro Gandalf o come direi il nostro J.R. Tolkien, ha detto nel Signore degli Anelli, qualcuno è convinto che sia il grande potere che debba fermare il mare. E invece sono i piccoli gesti fatti ogni giorno che tengono lontani l'oscurità. Dobbiamo chiederci prima di tutto che cosa vogliamo fare con la rivoluzione. La rivoluzione, se si va a cercarla su un dizionario, è la rotazione di un corpo celeste su un proprio asse. E proprio qui vi voglio, ragazzi, qual è il nostro asse? Qual è il nostro asse della nostra esistenza? Vogliamo che sia ancora l'avere, il possedere, lo sfoggiare, il consumovare o il consumismo, il capitalismo o il socialismo? Vogliamo che siano i diritti civili? Vogliamo che siano le adozioni gay o poter dichiarare qualsiasi stato di sesso? O decidere se un giorno sono uomo o donna? O vogliamo fermare qualcosa di più profondo che ci arriva dall'interno? Vogliamo fermare la nostra libertà di essere e basta. Senza che me lo venga a dire l'associazione multicolor, arcobaleno o chi cazzo decide delle associazioni internazionali. Vi siete resi conto che ormai il nostro Parlamento non fa più niente se non approvare le leggi decise da uno o dall'altro organo internazionale? Ci siamo accorti che non abbiamo più un filo di potere? Non decidiamo nemmeno la strategia di guerra. Noi mandiamo armi e basta. Rivoluzione del corpo intorno al proprio asse. Dobbiamo interrogarci sull'identità comune, sulla radice, su un obiettivo da raggiungere. A parte l'obiettivo principale per cui sono nati tutti questi gruppi nel 2020, che era la cancellazione del Green Pass. Siamo riusciti ad andare oltre? Io credo di no. Nemmeno ci siamo accorti che questo strumento in realtà era solo un piccolo puzzle, un piccolo tassello di quello che era il piano del mondialismo globale. Che alla fine, nel mentre, abbiamo accettato senza dire beef lo speed, abbiamo accettato la carta di identità digitale, abbiamo accettato il codice sanitario digitale. Ah, e fra poco accetteremo la digitalizzazione del denaro, perché è quello che stanno puntando in questo momento. Eravamo in piazza a cantare e ci poteva anche stare per i primi 3 mesi. Ma poi cosa abbiamo fatto? Ci siamo urlati contro, ci siamo strappati le vesti perché uno era più o meno fascista o comunista. Non ci siamo guardati nel profondo degli occhi e detto, e abbiamo iniziato a parlare seriamente e a trovare una soluzione vera. Non ci interessava. E poi il bello quando eri in piazza è che ti chiedevano, ma come mai ci sono così pochi giovani in piazza? Dove sono i tuoi coetanei? Forse gli avrebbe fatto bene sentirsi dire che i loro figli erano poco interessati alla libertà, no? Forse è perché li avevano educati così, o perché forse era la scuola che li aveva indottrinati molto bene. Genitori, abituati a denunciare i genitori, gli amici, come era nel 1984 col Sochi, no? E quindi, qual era il problema? Il problema era più profondo, ma non lo volevamo vedere. Era sempre colpa degli altri e mai nostra. Insomma, questi poveri giovani, ormai schiacciati da questo indottrinamento, dalle nuove droghe, come lo era il Soma, come era la gioia di poter denunciare qualcuno nel Soching, come erano i premi per chi denunciava qualcuno nel Soching. Ve lo ricordate, il nostro amico Gasman, che pochi giorni fa ha avuto un malore cardiaco, che strano, che diceva che era giusto denunciare i propri vicini se invitavano più di 2 persone quando l'avevano vietato. Il nostro partito del Soching ci aveva vietato di stare in più di 2 persone nella nostra casa, ve lo ricordate? Eppure adesso pian piano tutti i nodi tornano al pettine. Vogliono cancellare la possibilità che veramente il tempo agisca e faccia il suo mestiere. Perché il tempo prima o poi paga e ripaga questi stronzi, questi delatori, queste merde su 2 gambe. Arriverà il momento della giustizia. Ma non è con i mezzi dello Stato che questa giustizia arriverà. Come dobbiamo credere che non esiste cane che morde cane, dobbiamo credere che ci siano altre forze in gioco, non solo quelle che vediamo. È più facile credere al mondo della materialità, ma arriverà anche il mondo spirituale incarnato. Siamo riusciti a mettere sul piedistallo il mondo del contro. Tutto il resto è stato messo. Qualche timido tentativo è stato fatto, ma rientra nelle categorie dell'Ottocento. Ancora con sti cazzo di marxisti. Il marxismo come soluzione a tutti i mali. Il problema è che la maggior parte lo interpretano ancora in modi sbagliati. Nessuno si è letto Hegel e Marx, che parlano invece della spiritualità dell'uomo. Leggono solo le cose parzialmente. E pensare che la realtà di fondo era quella di vedere il lavoro come l'attività, ma attività intesa come nel modo tradizionale. Attività della ricerca di se stessi, nell'agire consapevole e non alienato come è lo schiavismo adesso e il lavoro adesso. L'attività del lavoro contro la passività del capitalismo e del capitale, della proprietà, della cupidigia, dell'avidità di quei tempi. La riflessione di Marx partiva da questo ed è un grande tradizione spirituale portata avanti fin dai tempi dei greci. E invece noi abbiamo visto solo quella teoria come un modo, anzi, diciamo che i nostri aguzzini l'hanno vista come una teoria per darci un contentino, un qualcosa che sembra diverso ma non lo è. Proprio mentre scrivevo questo podcast, una persona che seguo da un po' di tempo, anch'io sui social, adesso non anch'io un mago, un demone inferico che usa questi social, ha scritto un pezzo bellissimo che volevo leggervi. Il fantastico social di Zucchino ogni tanto ci dà qualche soddisfazione, qualche perla e qualche spunto di riflessione. E diciamo che da questo punto di vista vorrei spezzare una parola a favore di chi ha la volontà di utilizzare i mezzi del potere per attrarre le persone verso qualcosa di veramente diverso, che sia il mondo del materialismo spietato. Il pezzo che vorrei leggervi è di Alessandro Tattoli. Lo rispetto tantissimo, è una persona che legge molti libri e ogni tanto ci dedica anche del tempo e ci regala questi pezzi. Sempre più chiaro che chiunque non si conformi è un nemico. In un mondo o nell'altro, questa legge non scritta si impone capillarmente fino al più innocuo dei fenomeni quotidiani, diviene presupposto esistenziale. Ma persino, e anzi più di ogni altra cosa, l'anticonformismo si conforma, stipula un moto polmonare con la controparte gemella, conia un distintivo e uno statuto, inscena le sue espressioni sopra lo stesso tabellone da gioco dello status quo. Lo schema ingloba pro e contro, li connette in virtù dell'antitesi, li inizia ad incarichi sinergici in termini di mondanità e di cronaca, di consolidamento narrativo della struttura. Appunto quello che dicevamo prima, no? Abbiamo voluto andare verso la direzione di combattere con le stesse armi e contrapporre con gli stessi mezzi il sistema che voleva imporci delle cose. Riprendo. Tutto, anche l'opposizione, si ritaglia un posto nel parlamento naturale dei casi, la cui coautocità e destino si consegnano ad un patrocino nazionale e di vaticino virtuale che infonde un misto di umiliazione e confronto, sicurezza e inconsistenza. La depressione, questo déjà vu di Matrix iscritto nei cingoli della vita, attesta l'imperfezione dell'impostura, ma proprio nella sua difettosità trova un radicamento credibile, opporsi al quale significa essere sfrattati anche dal registro di coloro il cui malessere riceva almeno l'onore di una catalogazione o il privilegio deleterio di un TSO autoinflitto che ha nome del litio. Le arti, fino a un secolo scorso l'ultimo portale di scardinamento di questa tenaglia invisibile, sono divenute uno strumento prediletto orgoglioso di queste stesse tenaglie. Parole come elite, potere, per non parlare di padroni, lemma già retrocesso ed anacronismo, suscitano immediatamente un senso di imbarazzo, di scherno, di complottismo, di ingenuità e di non conformità. Il nome e il cognome del magnate o del direttore del forum internazionale, soprattutto sul banco degli imputanti, stride più di un riferimento generico dell'eminenza dei grigi retrostanti. Il conforme predilige mentalmente un mondo dal trono vacante, in cui imperare è la mano invisibile salvo poi dichiararsi un oltraggio del razionalismo. Il pensante, dal canto suo, cade nella gaffe eroica di pensare. È un ingenuo, urla ai quattro venti ciò che è talmente chiaro a tutti da sparire dalla vista e diviene all'ordine delle cose. Non pretenderà mica che le masse riusciranno al loro benessere, rinuncerà al loro benessere in nome della verità. Del resto le sue rivendicazioni non si discostano troppo dal languore che muove l'ottuso o il servo felice di esserlo. Non appena il pensiero, non predeterminato, si mette in circolo nel cervello, dovrebbe invece innescare il distacco irreversibile dalle cose per accedere alle quali l'adeguamento ha pattuito un oblio propizio e un ritorno ai termini di godimento e di accettazione. Al contrario, il malcapitato si risveglia in una verità tangibile e insieme reale, fornito di una chiaroveggenza nefasta che gli si ritorce contro, perché chi la sperimenta ambisce ancora, seppur alternativamente, ai balocchi, alle coccarde che la connivenza garantisce. Se la realtà è ciò che è ufficiale, da dove trae la sua pretesa ad essere ritenuto reale il paradigma non ufficialmente annoverato? Da qui la percezione di disturbo o di assurdo che suscita. Chi lo elabora è fuori di logica. Pretendere di voler aggiungere alla realtà dei termini che la realtà opportunamente ricodificata non prevede è pazzo. Non di meno, ottenuta alla quieta disperazione, pur frizza, attenta alla quieta disperazione che pur frizza e produce a parte titolare di un appalto con sfere insondabili, chi vuole prolungare la vita deve rinunciare a fisce di felicità, posizionarle strategicamente come carri armati coloranti del rischio e farli partecipare all'allegro massacro universale, fingendo di non credere ai dadi. L'ottuso non vede i padroni del discorso perché la diagnosi è imprecisa, semmai ci sono padroni del vocabolario, della facoltà psichica stessa di farne uso. Non governando il senso comune, governano il senso in sé, l'ontologia, sicché nessuno si accorge della manipolazione, perché ha rimosso il segno della rimozione, stuccato con omertà ambientale di massa, polizza inconscia alla sopravvivenza e biglietto della lotteria della vita. Conformismo, salute psichica e senso di responsabilità vengono fatte coincidere al punto che si distorce da questo trio di requisiti civici. Chi si distorce da questo trio di requisiti civici ricade nella forma di infrazione quasi biologica che la follia implica e alla cui indeterminatezza creativa viene addebitata l'onta di antagonismo alla vita. Vivere con ciò significa il grado di prostituzione interiore del tutto pacifica, pratica in nome della preservazione della possibilità di vivere, in vista di un non si sa che o meno, o almeno della gloria di un ospizio. Questo pervertimento corroborante si sublima in senso di responsabilità. Si vuole stare dalla parte di chi calpesta per il bene di tutti, perché non c'è vita senza calpestamento. Adeguarsi affinché chi calpesta non calpesti noi, e possibilmente ci lodi, ci premi. Lasci discendere dal nostro capo un senso di appartenenza, un prestigio d'ufficio. Meglio se burocraticamente configurato con un'aureola digitale o intellettuale, benedetto con l'ebbrezza di un ismo colorato, single a 16 lettere e buoni contro il soma. A farne le spese in primis, a parte la dignità, è quel senso altro, sottile e nobile, scagliato in antinomia con il godimento e il successo, che assume immediatamente la luna di martirio, di grinza patetica e santa in attesa di essere piallata. L'autenticità riceve un accredito sociale solo nella misura in cui dimostra che doti remunerative, sottomettendosi e quindi snaturandosi a quel principio di accumulo esibizionismo a partire da cui qualsiasi fenomeno ha dito. La lotta al potere è percepita perciò come una lotta contro la vita, giacché la vita in sé è messa sotto giurisdizione e sponsor degli agenti stessi del potere. Del resto, se la storia viene scritta da chi vince e nessuno resta la memoria di risultare nell'elenco storico di senza dignità. Una volta resi tutti complici, il reato scompare e chi lo denuncia, più che trasgredire, evade dal senso delle cose. La coscienza ha perso senza dubbio il suo ruolo super partes e soggiace alla revisione narrativa del discorso pubblico, nemmeno avvertito. In un contesto universale in cui il romanticismo è arcologia semantica, vivere da reietti non seduce di certo animi votati all'affermazione a qualunque costo. Ci si arrende, infine, all'impossibilità di trascinare il beota in consapevolezza per lui fatali, di rovinare l'impianto di miraggi che tanto faticosamente si è costruito e a partire dai quali fonda quella strafottenza che scambia a sua volta per potere, quel potere appunto la cui esistenza allo stesso tempo nega. Le rive dei fiumi sono ormai spalti ricolmi in cui tutti attendono, forse che i terrapieni delle due sponde franino all'unisono e ci trasportino come detriti verso il mare della tregua. Alex Tartoli, ti ringrazio per queste bellissime parole e vorrei fare un commento su questa piccola lettura. È chiaramente vero che a furia di dire che li aspetteremo ai bordi del fiume mentre passeranno morti i cadaveri, forse ci siamo riempiti un po' sulle sponde e vogliamo franare. Ma sono convinto che una buona parte di questi movimenti, diciamo contro, se vogliamo semplificare nel lessico e utilizzare appunto il linguaggio che tanto tu hai denunciato, in fondo abbia una buona parte di gente che ci crede veramente e che vuole cambiare il mondo. E ci affideremo a questo. Io torno a fare l'appello a tutti. Dobbiamo fermarci a riflettere. Abbiamo partecipato attivamente alla nostra cancellazione, alla dissoluzione e alle forme dei colori umani, rientrando in tutto per tutto nel golpe che tanto volevamo fermare. Eravamo forse impegnati a decidere chi era veramente complottista. No, lui no, perché non accetta le scie chimiche. No, lui no, perché non dice che è un trattamento sanitario obbligatorio e non riconosce che questo è un sierogenico. E dice solo che è un farmaco e basta. No, no, lui no, perché non accetta che Trump ci salverà o Putin verrà a aiutarci. E queste sono cose che abbiamo sentito davvero, almeno ognuno di noi. Abbiamo passato il tempo a denigrare l'ennesimo canale perché non si schierava dalla parte di Trump o di Putin o dalla nostra parte. E intanto passavano leggi in Parlamento, passavano nuove misure, non scendevamo in piazza perché non c'era nessuno. La rivoluzione non si fa così, ragazzi. Dobbiamo partire da noi stessi, fare una riflessione profonda, cambiare il nostro linguaggio, riappropriarsi della lingua più bella del mondo. Dobbiamo fermarci a discutere. C'è da ricostruire tutto. E adesso farò un elenco di qualcosa che secondo me è importante. Non esaustivo, ma almeno dovremmo iniziare a parlarne. Sotto profilo dell'economia c'è molto da cambiare. Basta con un sistema economico basato sul dollaro. Ogni Stato ha bisogno della propria moneta. E ogni Stato non può basare la propria ricchezza in base al debito o al non debito. C'è qualcos'altro. La ricchezza è la ricchezza dei cittadini, la ricchezza del risparmio, quello che ci ha reso grande come paese. L'Italia è al terzo posto prima dell'introduzione dell'euro. Nel 1981 eravamo il secondo paese al mondo a produzione. Fate due calcoli. Sotto profilo lavorativo, il lavoro e il precariato devono essere ripensati alla loro radice, anzi direi che il precariato deve essere completamente cancellato. È inutile avere delle carriere già prestabilite con i relativi titoli di studio, se poi abbiamo delle persone che sanno solo le nozioni a memoria e non hanno elasticità mentali e non hanno la capacità di ragionare criticamente, no? Dobbiamo dare degli stimoli di crescita alle persone, Dobbiamo dare la volontà, dobbiamo fargli piacere al lavoro che vogliono fare. Bisogna farli realizzare, ragazzi, ce lo dice anche la nostra Costituzione, il lavoro deve realizzare la personalità della persona. Dovrebbe essere un mezzo per garantire a una persona di potersi costruire la famiglia che vuole, di potersi permettere la casa che vuole e costruire qualcosa, rendere una persona felice. La disparità non si combatte togliendo solo ai ricchi o dando solo ai poveri, perché in realtà questo desiderio ha portato soltanto a rendere più ricchi una fetta della popolazione. Questa non è redistribuzione. Il capitalismo, il marxismo non funzionano, il socialismo non funziona, questo sistema non funziona. Istruzione e educazione pubblica. Sotto questo profilo abbiamo veramente bisogno di scuole che educano l'obbedienza invece che al pensiero critico? Possiamo scegliere noi che materie studiare secondo il nostro interesse? O dobbiamo sempre rivolgerci al grande Stato che ci deve dire che cazzo dobbiamo fare della nostra vita? Come fa a conoscerci? Ci deve dare le possibilità. Siamo noi che dobbiamo scegliere quale possibilità prendiamo. Un nucleo minimo per creare individui pensanti serve, chiaramente. Quindi c'è capacità di lettura, di scrittura e di comprensione del testo, che sono state completamente abbandonate. Lezioni anche sulle nostre radici. Anche perché no. Abbiamo una cultura che ha più di 2 millenni di storia. Perché non studiamo la nostra filosofia? E parlo personalmente. Io la filosofia non l'ho vista finché non sono arrivato in università. In un percorso tecnico, forse, se avessimo formato dei veri tecnici che si fossero posti delle domande etiche su quello che costruivano, non saremmo arrivati a questo punto. Socialità e famiglia. È giusto che ogni differenza sia accettata, ma non se questa differenza sia imposta da una minoranza e che porti al discrimine per chi non lo accetta. Ed in primis l'insegnamento della teoria gender, che si basano sul nulla, devono essere fermate, ragazzi. Cioè, le teorie gender non si basano, è basata sull'affermazione di questi due psicologi, tra le altre cose. Uno dei due è andato anche nei guai per i suoi scritti, dove ha parlato di parlando della sessualità, ha detto che 8 anni è troppo tardi, quindi secondo questo figlio di puttana bisogna iniziare subito all'educazione ai bambini, e il sesso con i minori è qualcosa che può essere fatto e che il nostro sistema ha bandito perché era una morale bigotta e cattolica. Cioè, vi rendete conto di chi cazzo stiamo seguendo adesso? La famiglia si può costruire con 2 individui di sesso opposto e non in nessun altro modo. Chi vuole dei figli, come tutti, si affida al circuito delle adozioni. L'utero in affitto è una vergogna. È una vergogna per chi viene sfruttato per la sua situazione di povertà. È una vergogna per la vendita effettiva di un essere umano riguardo ai soldi, anzi di un infante. È una vergogna perché l'essere umano diventa merce. Tutte le altre sono famiglie surrogate. C'è il circuito delle adozioni, che ben regolarizzato funziona. Però bisogna fare degli esami a queste persone, cioè che siano idonee ad accogliere un figlio, non solo la possibilità economica di crescere un figlio. Per essere dei genitori, essere genitori in questi tempi è veramente difficile. Creare una facoltà critica nei propri bambini, dargli un'alternativa a non conformarsi a quello che gli viene detto a scuola. Insomma, ragazzi, oggi vi lascerò con questi spunti di riflessione. Vi ringrazio per l'ascolto degli ultimi 50 minuti e ci vedremo alla prossima puntata. Oggi avete sentito in sottofondo Klaus Schulze, che è morto 2 anni fa, e ringrazio Emanuele, DJ set della Primavera Culturale, che me l'ha fatto conoscere. Intanto, ragazzi, ci vediamo in un'altra distopia.